140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Le abbiamo raccontate in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Warner Music, Milano. È famoso da anni come frontman dei Fan, ma per lui arriva il primo album solista, Grand Romantic. Lui è Nate Roos. I quite like being alone. It's actually really nice. I've been enjoying it because I've... Mi piace l'idea di stare un po' da solo. Mi sto divertendo. Ho fatto parte di diverse band negli ultimi, diciamo, 15 anni. E non hai mai un momento libero, soprattutto quando sei in tour, sei costantemente circondato da persone. La vedo come l'opportunità di cominciare a godere della compagnia di me stesso. Sì, è una cosa che sono molto felice di aver avuto la possibilità di fare. Il mio album personale. È qualcosa a cui non ero abituato. Ma mi piacciono le sfide con me stesso e ho voluto provare qualcosa di diverso. I titoli sono sempre qualcosa di molto importante, quindi mi piacerebbe sapere come mai hai intitolato il tuo album Grand Romantic. I always write titles before I actually like album titles, like some nights I... Scrivo sempre i titoli prima di cominciare a scrivere l'album vero e proprio. Sapevo che avrei voluto chiamare questo album Grand Romantic perché erano due parole che mi suonavano benissimo insieme. Quando ho cominciato a scrivere il disco, ho cominciato davvero a capire cosa queste parole significavano per me. Sicuramente è il titolo migliore che mi sia mai venuto in mente, e questo ha preparato il terreno per l'album migliore che io abbia mai scritto. So che hai un modo molto singolare di scrivere perché non suoni strumenti. Sì, è strano, ma in fondo sono grato per questa cosa. Forse se sapessi suonare uno strumento, starei sempre lì a cambiare le cose, a provare cose diverse. Invece lascio la canzone esattamente come l'ho suonata nella mia testa. La canto alle persone che stanno suonando. È bello. Scrivo la canzone, ma non sarei mai in grado di scriverla e registrarla del tutto da solo. Il primo singolo è una ballata molto potente. You know, it's interesting. I just wanted... È interessante perché volevo scrivere semplicemente qualcosa di positivo. Stavo ascoltando le canzoni che passavano alla radio, cose così. Sentivo solo canzoni che dicevano: esci, divertiti. Noi l'avevamo già fatto almeno 4 anni fa con We Are Young. Non puoi vivere nel passato e rifare quello che hai già fatto. Ma non volevo scrivere una canzone su un cuore spezzato. Volevo qualcosa da cui le persone potessero trarre un messaggio positivo e sentirsi meglio. In Nothing Without Love ho spiegato che a un certo punto ero molto più felice da innamorato piuttosto che quando stavo lì a commiserarmi. You know, spending so much time just wallowing in my like self-pity. Nel disco però tu analizzi molte sfumature dei sentimenti. Yeah, I thought initially that it was gonna be Sì, all'inizio pensavo che dovessero essere tutte canzoni felici sull'amore. Poi ho cominciato a scrivere l'album e a concentrarmi sul concetto di Grand Romantic. Mi è piaciuta l'idea di raccontare a quel punto di quando sei molto innamorato e poi le cose prendono un'altra piega. La verità è che sono un pessimista mascherato da ottimista. Credo che sia questo il concetto di Grand Romantic. Se sei determinato a tirar fuori i tuoi sentimenti, devi essere disposto a fallire, a riconoscere il tuo fallimento e a essere triste. Show all this love, then you really have to be willing to fail in the process and acknowledge your failure and be sad. BK! in this maze, losing love, losing friends, losing faith in chemicals. Afraid one day you'll find me asleep above the stars. I watch my mother cry, father time is catching up. I keep the phone by my side, afraid you'll wake me up to catch the next. Mi capita di parlare con persone che hanno vinto un Oscar e chiedo sempre loro se l'Oscar cambia la vita. A te lo chiedo per il Grammy. I don't think so. I didn't even really know what the Grammys were until about like 3 years before we were nominated for them. Non credo. Peraltro non credo che sapessi davvero cosa significassero i Grammy fino forse a 3 anni prima delle nostre nomination. Per me è stata una cosa bella, però per me conta di più il fatto di essere stato premiato quest'anno alla Songwriters Hall of Fame. Per me è importantissimo perché io penso a me stesso innanzitutto come a un compositore e solo dopo come a un performer e a un cantante. L'importante per me è scrivere canzoni. For me, like, obviously a Grammy is an amazing thing and it's something that, you know, I think. Certo, i Grammy sono una cosa fantastica, però non mi avrebbe cambiato la vita non vincerli. Credo che le statuette ce le abbiano da qualche parte i miei genitori. I mean, it's all good by me. I think my parents have them somewhere. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Nate Roos. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.